E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori riparte in questa seconda parte di trasmissione dopo il GR di Radio Popolare Network. Abbiamo riaperto la puntata di stasera, ricordiamo ancora il tema di stasera è astrazione e distruzioni, con un lavoro di un autore, compositore giapponese piuttosto importante nell'ambito della musica contemporanea, anche se non particolarmente conosciuto, ma in ambito connesso ai musicisti, ai critici, agli addetti ai lavori cosiddetti è piuttosto conosciuto. Si tratta di Toshio Ozokawa, che oltretutto è stato un pupillo del grande Isang Yan, che è stato suo maestro, musicista che si è formato sul terreno ovviamente di studi classici per poi spostarsi a delle ricerche sonore connesse alla musica contemporanea, non dimenticandosi mai però di allacciare questa ricerca legata alla musica contemporanea con la musica tradizionale giapponese, l'utilizzo di strumenti piuttosto importanti e tradizionali giapponesi come il koto, lo shō e flauti particolari come quello che è stato utilizzato in questo brano splendido tratto da un album uscito nel 2006, Birds Fragments, che è un'opera che si è dipanata in 20 anni quasi di elaborazione. Musicista tutto sommato anche piuttosto fecondo dal punto di vista delle composizioni, ha iniziato a produrre materiali, collaborazioni e lavori e composizioni dal 1977 all'età di 21 anni, giovanissimo, essendo nato nel 1955. Pensate un po' proprio ad Hiroshima, e qui ovviamente facciamo un riferimento e anche un omaggio ai grandi compositori, alla grande ricerca sonora e sperimentale di molti musicisti e autori giapponesi che abbiamo in questi 10 anni inserito spesso all'interno di 451 frammenti sonori, ed è veramente qualcosa che chiaramente tocca tutto il mondo e in particolar modo noi che conduciamo una trasmissione musicale, la tragedia immane che ha colpito il Giappone, prima con lo tsunami e poi soprattutto in questo momento con il terrore, con le contaminazioni nucleari per la distruzione, il rischio di vere e proprie catastrofi generalizzate, non solo legate ovviamente al territorio giapponese, di quello che significato e continua a significare il pericolo, l'incubo nucleare. Incubo nucleare che, come avrete notato ultimamente nei media italiani, è stato messo un po' in secondo piano, giustamente anche in questi ultimi 2 giorni per quello che sta succedendo con la guerra alla Libia, ma chiaramente la paura anche da molti osservatori e molti attivisti è che piano piano si nasconde e si cerchi di mettere un po' a tacere quello che sta accadendo. Le autorità giapponesi, le aziende, perché bisogna ricordare molto bene che dietro anche la costruzione, le responsabilità di queste centrali nucleari sono delle società private, le multinazionali, gli interessi capitalistici che stanno dietro l'industria nucleare, non solo in Giappone ma in gran parte dei paesi occidentali, sono veramente enormi ed è allucinante quello che sta accadendo soprattutto in Italia, dove fino ad adesso i responsabili governativi, non solo confindustriali o comunque connessi anche agli interessi non solo del capitalismo italiano ma anche del capitalismo multinazionale, stanno appunto cercando di far passare comunque l'idea di un nucleare sicuro di terza, quarta generazione, che probabilmente verrà di nuovo riproposto forse quando le acque saranno calmate e soprattutto le notizie e le informazioni saranno comunque nascoste. Il problema poi delle morti, delle contaminazioni ambientali nel terreno, nell'acqua, nell'aria e soprattutto anche nella nascita di bambini e dimensioni che possono durare per decenni e decenni successivi, queste cose vengono soltanto fatte emergere da alcuni giornalisti o trasmissioni un minimo indipendenti. Basta ricordarsi di quello che ha significato Chernobyl e degli effetti ancora devastanti nei nascituri e nei bambini appena nati ancora in questi anni, che ovviamente hanno colpito i loro organi vitali, ovviamente bambini che hanno mille problemi e situazioni in cui la popolazione di tutta l'area di Chernobyl ancora subisce i danni di quello che è stata la contaminazione radioattiva. Il problema è molto serio ed è allucinante quello che sta accadendo, perché comunque al di là delle presunte intenzioni di fermare, modificare, ripensare il nucleare, la partita è ancora molto aperta. Il problema serio è che ovviamente se non parte un vero e proprio movimento dal basso, popolare, auto-organizzato, scevro e staccato da qualsiasi interesse politico, economico, sarà molto difficile bloccare tutta una serie di progetti che riguardano appunto gli impianti nucleari, non solo in Italia. Chiaramente l'Italia è un problema molto serio per tutte le speculazioni connesse al nucleare, perché ancora dopo il referendum dell'87 rimane ancora un territorio che non ha all'interno centrali nucleari attive, e il rischio appunto che cerchino in qualche maniera di propagandare, di portare avanti questi progetti, forse superata la fase di shock e di difficoltà. Vedremo, dovremo vedere ovviamente tutto quello che accadrà anche in conseguenza in questi prossimi tempi nel Giappone. E al di là di queste osservazioni, che però mi sembrava doveroso farle data la situazione piuttosto grave e allucinante, soprattutto quello che lasceremo in eredità al futuro genere umano, era secondo noi piuttosto giusto anche ricordare, attraverso un autore nuovo che non avevamo mai inserito all'interno della nostra scaletta, caso vuole che fosse proprio nato addirittura ad Hiroshima, una delle città devastate dalla bomba atomica nella Seconda Guerra Mondiale. E con questo omaggio anche a tutta la cultura, alle sperimentazioni giapponesi che spesso abbiamo affrontato all'interno di 451 frammenti sonori, ci spostiamo invece ora verso un terreno estremamente dialettico tra l'elemento astrazione e l'elemento distruzione. Un album di un grande sperimentatore che già in alcune occasioni abbiamo inserito all'interno di 451 frammenti sonori, un musicista estremamente interessante, cioè Ben Frost, musicista che lavora su sperimentazioni sonore, muovendosi in ambito anche tecno, ma una tecno sperimentale aperta a molte contaminazioni, molto molto aperta. Un Ben Frost che nell'album uscito un anno fa, By the Throw, del 2009, porta avanti un discorso estremamente interessante, estremamente sperimentale, che elabora l'idea sia dell'astrazione che della distruzione. Due brani che possono sembrare anche molto distanti, rumoristi per certi versi, infatti le definizioni tecno-sperimentali per certi ambiti elettronici sono anche alle volte un po' eccessive. Il musicista si muove su dei terreni rumoristi che si alternano in realtà anche a dimensioni più squisitamente connesse a musiche folk completamente rideterminate, una sorta anche di non music elaborata nei propri progetti musicali, ma la cosa più importante è sicuramente l'aspetto distruttivo e astratto che viene appunto messo in dialettica, in rumorismi e in dimensioni anche aperte, con piani acustici che aprono a dimensioni appunto più astratte che distruttive. Troveremo dunque questi due aspetti che si confrontano nei due brani che abbiamo selezionato nello stesso album, ricordiamo ancora, By the Throw, uscito nel 2009, dunque circa un anno fa. Continuiamo dunque il nostro percorso con Ben Frost e ovviamente buon ascolto. Thank you. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo questo meraviglioso delirio dadaista di P16D4, formazione storica della musica industriale tedesca, nata alla fine degli anni 70, e la produzione più importante si è dipanata negli anni 80 per poi chiudersi all'inizio degli anni 90. Questo è un lavoro, forse uno dei migliori album realizzati da questa formazione, estremamente aperta nell'ambito della musica industriale, con chiari costruzioni e decostruzioni dadaiste, ma con aperture molto interessanti a tutto il panorama dell'espressione sperimentale musicale, dal jazz più informale per arrivare all'elettronica improvvisativa, per momenti più rumoristi, ad arrivare appunto a costruzioni tipiche della musica e della scena industriale. Formazione importantissima che decostruisce, deframmenta e ricostruisce registrazioni, dimensioni assurdiste che ad esempio emergono soprattutto nel secondo brano che abbiamo ascoltato. Il primo è estremamente duro, distruttivo, ma il secondo che abbiamo appunto finito di sentire poc'anzi elabora questo incrocio tra sax free inserita all'interno di rumori, suoni e addirittura richiami dei frammenti quasi di marce naziste, ovviamente chiaramente inserite dentro quel discorso estremamente politico dentro il progetto P16D4, interno al discorso distruttivo, ma anche dentro il discorso dell'aspetto più connesso all'astrazione, che è il tema di stasera, dopo aver appunto ascoltato i due brani splendidi di Ben Frost, dove la sua chitarra chitarra assolutamente distruttiva e rumorista, intervalla momenti invece aperti, estremamente astratti, che abbiamo ascoltato con quelle linee di piano che però nascondono sempre un'inquietudine quasi apocalittica. E dopo questo binomio, Ben Frost, lavoro molto recente, uscito nel 2009, mentre il disco che abbiamo appena ascoltato è del 1984, Destruct, già la parola dice tutto, e andiamo a trovare il prossimo personaggio all'interno del nostro percorso musicale. Si tratta di un francese molto molto interessante, il progetto di Michel Blanc, che abbiamo già inserito in altri, con altri due album in precedente trasmissione. Andiamo invece ora a trovare il disco che viene considerato un po' da tutti il più importante di Michel Blanc, Le Passage Éclair, uscito nel 2006, uno splendido lavoro che si dipana fra rock rumorista, jazz, elettronica e dimensioni appunto molto astratte, molto aperte, che rappresentano molto bene tutto il percorso di produzione musicale di questo interessantissimo musicista francese. Ogni disco ha una sua particolarità ed è veramente un personaggio da seguire molto molto bene nel suo percorso musicale, che ancora si sta attualmente sviluppando. Andiamo ad ascoltare appunto dalle Passage Éclair del 2006 due tracce che rappresentano anche qua molto bene la dialettica fra astrazioni e distruzioni. Buon ascolto con Michel Blanc. Thank you. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta dopo questi splendidi anzi frammenti che abbiamo inserito dallo splendido album Le Passage Éclair del 2006 di Michel Blanc, un autore veramente interessante da seguire perché, come avrete ascoltato, si muove veramente su vari territori, dimostrando una grande originalità, una grande capacità compositiva. Si passa veramente da dimensioni molto distanti, ma sicuramente l'aspetto distruttivo in alcuni frammenti rumoristi anche strutturali dei brani realizzati dal musicista francese emergono in maniera piuttosto evidente, oltre al fatto di un certo astrattismo che diciamo percorre quasi tutti gli album fino ad ora realizzati da questo autore francese semi sconosciuto. Noi l'abbiamo scoperto anche quasi casualmente, abbiamo già inserito 3 album, questo è il terzo che abbiamo fatto ascoltare nel corso degli ultimi mesi di 451 frammenti sonori, ed è sempre molto stimolante il fatto di riuscire sempre a trovare autori nuovi, essere sempre sorpresi, non sentirsi mai sazi anche negli ascolti, nelle ricerche rispetto a autori che poi si scoprono essere estremamente innovativi, anche originali, e soprattutto potrebbero essere estremamente seminali anche in prospettiva per tutta una serie di percorsi musicali aperti ed entrare dentro un discorso che riguarda poi fondamentalmente la natura stessa della trasmissione di 451 frammenti sonori. E ormai siamo arrivati alla conclusione di questo percorso Astrazioni ed Istruzioni e in chiusura un progetto che esprime molto bene questi due concetti e queste due dimensioni. Dimensioni espressive e anche per certi versi emotive della trasmissione di stasera. Si tratta di una formazione che si muove tra noise e ambient. Può sembrare assurdo questo binomio, in realtà non solo questa formazione, ma anche altri si sono mossi sul terreno rumorista che, come molti conoscono, si è diciamo riemerso in maniera assolutamente nuova nelle produzioni tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 0 con la scena rumorista americana. Il noise, già negli americani, in alcuni progetti americani come questo che andremo adesso a presentare, c'è stata poi un'apertura verso dimensioni ambientali, verso anche dimensioni più elettroniche e aperte a espressioni sonore differenti strettamente dal noise come categorie, come scena musicale. E questa formazione riesce perfettamente a variegare nel corso degli album, in particolare di questo ultimo album uscito alcuni mesi fa, uno splendido disco, forse uno dei migliori del 2010, riesce proprio a coniugare queste dimensioni sonore diversificate che riescono perfettamente ad elettizzarsi ed intersecarsi dentro un percorso assolutamente unico e originale. La formazione Onetrix Point Never, l'album Returnal, che rappresenta forse una sintesi perfetta anche di questo discorso che stasera abbiamo cercato di sviluppare all'interno della trasmissione di 451 frammenti sonori. E chiudiamo proprio così, con questa dimensione che il disco Returnal riesce molto bene a rappresentare, dunque sia l'elemento delle astrazioni, intese come astrazioni appunto espressive, emotive, sonore e compositive, e sia l'elemento delle distruzioni, distruzioni che ovviamente 451 spesso ha rappresentato attraverso il noise, attraverso la musica industriale, attraverso una contemporanea completamente destrutturata e urticante, fastidiosa, cattiva, distruttiva appunto. Due elementi che abbiamo cercato di coniugare attraverso un percorso sonoro che voleva anche agganciarsi chiaramente alla dimensione che ci viviamo in queste ultime settimane, con i disastri sempre più accavallati in questo 2011 che certo è iniziato in maniera sicuramente dirompente. Onetrix Point Never, dunque, da Returnal, disco uscito qualche mese fa e chiudiamo proprio così il nostro percorso. Ovviamente noi vi aspettiamo, per coloro che hanno voglia di rimanere alzati fino a tardi, di ascoltare qualcosa anche di differente, almeno speriamo di farlo all'interno di questo laboratorio di sperimentazione che ormai ha compiuto i 10 anni. Vi aspettiamo sempre domenica dalle 23:30 circa fino alle 2 di notte, con un altro percorso sonoro di 451 frammenti sonori. Ricordo, per completezza di informazioni, che potete comunque sempre visitare, se ne avete voglia, il nostro blog No Blog, esattamente 451 frammentisonori.noblogs.org. Troverete tutte le trasmissioni, diciamo, degli ultimi mesi. In alcuni casi avrete delle informazioni più dettagliate per alcune tematiche di trasmissioni e altre notizie connesse alle musiche e non solo, che trattiamo all'interno di questo laboratorio. Intanto vi lascio con Onetrix Point Never e vi saluto e vi auguro una buona nottata, senza però cancellare il discorso connesso a una certa coscienza di quello che sta accadendo, perché ci stanno prendendo in giro pesantemente su varie tematiche, anche se il coro sembra abbastanza unitario, purtroppo anche all'interno di giornali e media che fino a qualche anno fa mantenevano una posizione almeno leggermente un po' critica. Questo clima un po' di consenso generalizzato rispetto appunto e soprattutto alla guerra in Libia mi lascia abbastanza preoccupato. Esiste ovviamente un movimento pacifista, alcune personalità e alcune soggettività che si stanno muovendo contro questo intervento armato, però il clima generale mi sembra un po' addormentato rispetto a quello che sta accadendo, un po' anche rispetto al discorso nucleare, ma dipende molto anche dalle informazioni che non ci arrivano, perché le informazioni poi sono chiaramente piuttosto convogliate a livello di regime ed è tutto molto coperto e ci arriva veramente molto poco. Niente, continuiamo a mantenerci vigili il più possibile, anche se il nostro quotidiano ci ammazza ora per ora, ma dobbiamo mantenere, sforzarci una certa criticità e una certa attenzione rispetto a quello che ci sta circondando, perché rischiamo poi di ritrovarci in una dimensione veramente pesante, forse anche quasi apocalittica, senza nemmeno rendercene conto. Niente, con questo finale piuttosto pessimista, svegliamoci e addormentiamoci nello stesso tempo. Vi auguro comunque la buonanotte e buon ascolto con l'ultimo brano e poi con la programmazione notturna di Radio Città del Capo. Buonanotte. Buonanotte.